Gianluca e Adriano, ragazzi dei Castelli Romani, anarchici, vengono arrestati il 19 settembre dell'anno scorso. Un'operazione del pool antiterrorismo e dei ROS le ha ritenuti gli artefici di una serie di danneggiamenti di varia natura avvenuti nella provincia di Roma. Si tratta di 13 sabotaggi compiuti nei confronti di alcune banche, di una pellicceria, di sedi distaccate di Eni ed Enel e della discarica di Roncigliano. Vengono fatte pesare su di loro le accuse di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, oltre a quelle di incendio, furto aggravato in concorso, deturpamento e imbrattamento di cosa altrui. Dal giorno del loro arresto, per Gianluca e Adriano c'è stato solo il carcere in regime di isolamento, il primo ad Alessandria ed il secondo a Ferrara, all'interno di quelle sezioni speciali dove vengono reclusi uomini e donne, la cui prima colpa allora attribuita è il pensiero di cui sono portatori e portatrici. Il 26 maggio, presso la Corte d'Assise di Roma, si svolgerà la prima udienza con rito abbreviato ed il PM presenterà la richiesta di condanna. Esprimiamo con forza la nostra solidarietà e vicinanza a Gianluca e Adriano, consapevoli che la vicenda che li riguarda è parte di tutte e tutti coloro che mettono in gioco se stesse per esprimere e praticare le proprie idee di libertà ed uguaglianza, senza distinzioni e nel rispetto delle diversità di ogni vita. Anche quel giorno Gianluca e Adriano non saranno soli. 26 maggio, Corte d'Assise di Roma, a fianco di Gianluca e Adriano. Su schiavi allarmi, allarmi, puniam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte.